lì, su che andiamo, su. Ecco per cui andare, Brigido. Sì, Fiordo, buonasera. Buonasera anche a lì. A me la testa, a posto. Tutto a posto, davanti a posto. E adesso però sono alzato, sono tutto rincoglionito, sono. Anche io me ne sto alzando. Sì, ma io mi sono pensato di mandare a mangiare fra poco d'ora. Sì, io lo so. Domani, come si muove domani mattina, alle 2:30 devo fare il servizio fino alle 10:30. Dimmi tu. Dimmi tu, cazzo. Me ne sono alzato tardi. Me ne sono alzato. Cazzo, sono già Lisetti, guarda. Lisetti sono. Ehi, ma tu sei a casa, io cazzo mi sono alzato perché devo andare a lavorare. E poi faccio la notte, smonto alle 6:30 e alle 2:30 domani devo rientrare a lavorare fino alle 10:30 di notte. Dimmi tu. Cazzo. Pensa tu, come cazzo sono io. Io già ti capisco. Sono sciolto, Natale, sciolto, veramente, ho la testa che mi sta fumando a me. Tutti gli suri, io non lo so come ti vado di lì. Ah, che cazzo sono, no, ecco viene pieno, ecco viene pieno, cazzo. Non lo possono fare, a smontare tu e dopo alle 2 torna a servizio. Non lo possono fare, no, lo so che non lo possono fare, già lo so. Ma se non vedi nessuno, cazzo, già lo grido. Cazzo non vedi nessuno, se ne sono cazzo di tardati. Io lo grido. Cazzo, si ci vede in realtà di così. Roba la mazza, cazzo, la rinuncia, roba che vorrei duvida. Cazzo, meno uno io, la mazza di Canuti. Sì, tu, la cazzo. Se la macchina, cazzo, non ghiaccio qui la roba. Non lo posso immaginare, cazzo, me ne vado. E tu, cazzo, di chi? Di macchina. Ho le date delle città, ho le date delle misavi. Alla macchina, per esempio, anche se un po' la gamba a controllare un attimo la situazione. E la butta dove tu la posare, cosa fai? Sta sempre sai? C'era stato la corrente lì nell'ufficio, era un altro discorso, ma siccome se ne sbattono i coglioni, tanto no, non ci sono loro di notte che la fanno al servizio. Infatti, loro ne approfittano, cara.